Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo alle 8:20 minuti in punto, caro Oscar. Eccoci. Addirittura un po' prima delle ultime puntate che iniziamo. Sempre più tardi. Oggi è un giorno di quei santi che dividono e fanno discutere. Ah, sì? Come mai? Eh sì, fin dall'inizio, perché fu proclamato nel 1950 da Papa Pio XII, ma in capo a pochi anni già era contestatissima la sua scelta, perché stiamo parlando di una giovanissima fatta santa perché, come si diceva a quei tempi, difendeva la sua virtù, Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti, giovane ragazza marchigiana di nascita, poi la sua famiglia, come tantissime altre famiglie marchigiane all'inizio del Novecento, andò a lavorare nell'agro pontino prima che venisse bonificato poi dal fascismo, e l'agro pontino nella campagna nettunense, lo sfondo su cui avviene una vicenda di un ragazzo di 18 anni che tenta di violentarlo. Lei si oppone e muore, e prima di morire perdona cristianamente il giovane, che si farà 27 anni di carcere e che quando uscirà chiederà perdono in ginocchio cristiano anche lui alla madre. E la celebrazione della santità di Santa Maria Goretti è un po' appunto il simbolo che poi verrà criticato tantissimo negli anni 70 e così via da un certo femminismo. Comunque il santo è questo e non si discute. Tra le cose avvenute oggi ne ricordo due, perché certe cose ce le siamo dimenticate, perché oggi nel 1942 partiva per la Russia, una roba voluta dal fascismo per fare la guerra in Russia, l'Armir, l'ottavo corpo d'armata italiano in Russia. Erano 230.000 persone, c'erano già 58.000 che erano stati spediti, insomma più di 280.000 italiani. Ci tengo a sottolineare che forse non molti ricordano, ma a tornare indietro sono stati 10.032 su quei 280.000. Ecco, per capire la decimazione, che cosa dobbiamo a quel regime. Non ricordo solo una, perché poi sembra che la storia rimanga così, sfumi a un certo punto e tutti ricordino solo cose positive, e invece direi di no. E in questo giorno, 1978, il mio carissimo amico, che saluto a distanza, Aldo Ravaioli all'epoca era un giovane imprenditore, presidente del comitato piccola industria di Torino, gli spararono nel 1978 dei Brigate Rosse. Per fortuna se la cavò, e poi lo leggemmo deputato del PRI a Torino, e ancora mio carissimo amico, sembra ieri ma sono passati quasi 40 anni. Per fortuna quelle vicende non si ripetono più. Come ti ha già detto il nostro grandissimo Meazza, sì, voi siete dalle ore 00 aspettavate questa giornata internazionale di oggi del bacio. Abbiamo visto la notte girare per i Navigli. Sì, cartelli entrambi che dicevano giornata del bacio, è la giornata mondiale del bacio, esatto. Quindi però, potete reclamare baci dalle vostre amate o le vostre, e infatti c'è la direzione del PD che sai che per questo è vero, al chiuso per la prima volta non la fanno in diretta streaming, quindi si baceranno non a favore di te, ma limonano duro secondo te? Non lo so se limonano duro, che immagine, lo so, perché mi sembra che Franceschini, no, adesso ho messo delle facce, ho subito mentalmente associato alcune facce il limone duro, e devo dire che non ti viene, non lo so, devo dire che, e forse è l'unica maniera per rendere interessante il racconto della direzione PD. Chi lo sa, visto il livello. Oscar, grande, però, Paolo Mieli oggi che li sfotte, i pro, Itaca, è sublime questa maniera sottile di ridurli a epos. Non siete neanche nella cronaca. Forse per rimanere qualcosa, uccidetevi. Cioè, guarda, no, che il linguaggio è leggerissimo, ma la sferza di Paolo Mieli oggi è dura. Oscar, io credo che noi dobbiamo, prima di parlare degli argomenti, eccetera, ricordare una persona che visto che ce ne siamo occupati, sì, un po' nel silenzio generale, perché qualche giorno fa, una decina di giorni fa, vi ricordate, abbiamo parlato della lotta strenue, magari non condivisibile, dell'indipendentista sardo Dottore Meloni. Dottore Meloni, che è entrato in carcere per un reato fiscale dicendo farò come Bobby Sands, no? Che per uno lungo sciopero della fame contro gli inglesi si è lasciato morire. E dottore Meloni è morto ieri, nel silenzio, nell'indifferenza. E ancora pochissimi giorni fa il pubblico ministero diceva che poteva stare benissimo in carcere, esatto, perché le sue condizioni erano del tutto coerenti con rimanere in carcere. Alla fine l'hanno portato in ospedale negli ultimi 3 giorni. Ci è arrivato già in coma. Esatto. Io provo orrore, sinceramente orrore. Non trovo altra parola e devo misurarla, perché mi verrebbe da dire altro. Per uno Stato che non riesce a graduare la forza della sua spada e non capisce, non sa fare distinzione, o meglio, che capisce benissimo, ma non sa e non vuole fare distinzione tra criminali incalliti, gli evasori beccati che lo fanno per convenienza, sì, eccetera eccetera, e chi invece dichiara esplicitamente per motivi ideali disconosce la sovranità italiana. Ma non è la stessa cosa di essere criminali, è un'opinione forte, alta, nobile. Certo, non si può condividere? Non ho detto infatti, questo. Guarda, lo scrittore dice violi la legge, ma lui per primo, lui si stava consegnando, certo, quando andarono ad arrestarlo. Quindi è una cosa dichiarata, ripeto, gandiana. Allora, applicare a questo un codice di attuazione della pena, io non sto dicendo non dovevano condannarlo, per cui in carcere e di fronte al suo sciopero, la fame della sete, lo Stato braccia con sette, dice crepa se vuoi, esatto. È una roba barbarica, orrenda, che infatti, veramente. La cosa incredibile è proprio questa, perché lui entrando in carcere ha detto va bene, allora io farò come Bobby Sands. Ha iniziato uno sciopero della fame durato 60 e più giorni. Orrendo. E dice, io ho intervistato poi per la verità la moglie Giovanna Uccheddu, che ha detto guardate che nell'indifferenza totale sta morendo e chiede solo di andare agli arresti domiciliari, di essere curato in ospedale, e nell'indifferenza totale, nel silenzio, è morto. Io devo dirti, ho avuto corrispondenza con amici ascoltatori sardi in queste 2 settimane, che dicono ma perché lo prendi tanto sul serio, non ha mai avuto consenso, è mai riuscito a prendere volte. E la mia risposta era, bravo Alessandro, esattamente come hai detto tu adesso, non è mica su quello che si misura se una persona dice individualmente, senza dire altrimenti alle elezioni succedono le migliaia di baionette di cui parlava Bossi, no, però se individualmente lo fa. E io penso che lo Stato deve essere capace di sapere distinguere la forza dalla sua mano. Se non lo fa, è uno Stato barbaro. Infatti lo scrittore Marcello Fois oggi sul Corriere dice è vero, a lui non stava simpatica l'Italia e all'Italia non stava simpatico lui, per cui c'era questo fastidio che ha creato una pedanteria nell'applicare le leggi, no? Cioè a lui per reati fiscali credo che non ci sia nessuno in carcere o pochissime persone. Chissà, lui i magistrati della sezione di applicazione delle misure si sentiranno degli eroi della Repubblica Italiana per aver fatto i barbari fascisti. Addirittura. Sì. Non c'è dubbio. Allora, comunque questo è almeno il nulla o poco che possiamo fare, insomma un ricordo di Dottore Meloni. La speranza che qualche riflessione anche a voi ascoltatori che non avete giustamente mai sentito parlare lo ponga, cioè, chi lo fa per ragioni ideali infatti va lui trattato diceva, come un criminale. Lui diceva non ho un partito, non ho migliaia di voti, ma ho le mie idee discutibili, l'abbiamo detto mille volte, però conosceva la sovranità dello Stato fiscale. In ogni caso cambiamo un attimo registro, perché volevo lanciare una domanda agli ascoltatori all'800240024, che suona più o meno così: ma voi sareste disposti da genitori a far controllare il capello ai vostri figli, cioè l'esame del capello per vedere se a scuola, per vedere se fanno uso di droga? Bella domanda, vediamo anche la risposta. Chiamateci su questo, perché è una proposta, come dire, allo studio, ecco. Allo studio, ma di quelle che divide. Perché ovviamente divide. Poi a un certo punto c'è il timore, no, la tutela della privacy, ma chi mi garantisce? Ma esatto. Noi vogliamo salutare l'assessore regionale alla sanità lombarda, Giulio Gallera. Buongiorno assessore, buongiorno, grazie di essere qui. Allora, diciamo che non è niente di ufficiale, però diciamo anche che è un'ipotesi che lei caldeggia, peraltro, o comunque sta sostenendo. Dice perché no? Mi sembra, no? Questa è la sua posizione. Guardi, è una proposta che è emersa in consiglio regionale e io, come penso sia giusto laicamente su un tema così complesso come quella del contrasto alla diffusione delle droghe, soprattutto nei confronti dei giovani, ho detto valuteremo e magari potrà essere infatti sarà molto interessante vedere anche il riscontro dei vostri telespettatori e radioascoltatori su questo tema, no? Chiaramente un progetto che deve vedere la condivisione della scuola e delle famiglie, anche nella logica della privacy. Come sa, mettere tutti d'accordo su un tema così non è possibile, no? Ci saranno persone che diranno di sì, ci saranno persone che diranno no, per carità, io. E quindi un accordo unanime non lo si troverà sicuramente. Cosa vuol dire sperimentale? Cioè... No, vuol dire che insomma, noi ripeto, mettiamo in campo ogni anno molte azioni di informazione e di azione nelle scuole proprio, no? Sul tema delle droghe, della tossicodipendenza e delle dipendenze in generale. L'idea è quella di costruire un programma articolato all'interno del quale valutare se in alcuni plessi scolastici, con la condivisione di alcune classi e di dei genitori, tutti o parti di essi, attivare anche un progetto che possa vedere agli psicologi, il sistema di informazione, anche nell'esame del cappello dei ragazzi. Ma come andrebbe, cioè come tecnicamente, se ci fosse, ovviamente sarebbe su base volontaria? Cioè, immagino di sì, non è che... In base volontaria, con l'autorizzazione delle famiglie, insomma, deve essere la famiglia che autorizza la realizzazione. Questo. No, poi, ho capito, ma il genitore è d'accordo, ma se il figlio sedicenne non è d'accordo, si deve sottoporre, si dovrebbe sottoporre, usiamo il condizionale, si dovrebbe sottoporre in maniera... Guardi, io non sono un medico e né uno psicologo, e l'idea del tavolo e della definizione del progetto servirà proprio a questo, a definirne i contenuti, no? Per capire se anche questo, che oggi è uno strumento che viene utilizzato soltanto, diciamo, in una... evidenza di utilizzo combinato di droghe per averne un'ulteriore prova, no? Non è oggi un metodo, non c'è uno screening oggi che viene fatto con l'utilizzo del cappello, no? Ma è una uno strumento che utilizziamo in una seconda fase, se invece ha un senso poterlo estendere in una via quasi pedagogica di prevenzione. Questo è. Poi il come, appunto, ci sarà un gruppo di esperti che lo dovrà studiare. Ecco, l'idea non è quella, evidentemente, di tutti coloro che si iscrivono a scuola adesso fanno di diffondere questo. No, esatto, quindi, chiariamo, non è che a settembre, ci sarà l'esame del cappello preventivo per entrare nelle scuole. Questo tema della diffusione anche e dell'utilizzo delle droghe è un grosso problema, lo è nelle scuole, lo è nella nostra società, lo vediamo le carceri, le comunità terapeutiche, quindi dobbiamo provare a mettere in campo tutti gli strumenti, e perché non sperimentare anche questo e capire se può avere qualche efficacia magari maggiore nei confronti dei ragazzi rispetto a vedere qualche immagine cruda o a studiare gli effetti delle droghe. Ma infatti qui, Oscar, ci siamo sempre occupati anche quando ci sono stati i blitz, no? I veri e propri blitz nelle scuole, e le reazioni sorprendenti dei genitori che erano contrari. Che uno dice, Ma perché dicono il metodo deve essere, come dire, educativo e non poliziesco, se vogliamo, o repressivo. Molto spesso era evidente che il genitore era assolutamente contrario al vedere il proprio figlio coinvolto. Meglio non sapere piuttosto che... Molto discutibile, ma bisogna tenere presente che le reazioni spesso sono queste. Però la diffusione delle droghe nelle scuole purtroppo è un dato di fatto. Ora, io ho un'opinione capire... generale totalmente minoritaria, come sempre, ma la dichiaro come tale. Io sarei favorevole a ripristinare screening, non solo su questo, obbligatori di massa con la tutela della riservatezza nella scuola italiana. Perché? Perché? Perché noi abbiamo perso ciò che nella vecchia impostazione, criticabile, censurabile, perché veniva dalla scienza medica neopositivista d'inizio Novecento, c'erano gli screening obbligatori, no? Si facevano nelle scuole elementari, si faceva poi l'esame di leva della coscrizione obbligatoria. Ecco, gli screening obbligatori costituiscono la base di serie storiche epidemiologiche fondamentali per analizzare. Però garantendo la privacy. La privacy, che è il grande problema della civiltà digitale, no? Ecco, ora che tutti quei screening sono tutti saltati, quelli obbligatori, la mia idea personalissima è, perché io so che gli altri dicono ma oh, fallo tu se vuoi, ecco, fallo tu. No, il problema è che a noi sfugge la dimensione reale, la diffusione reale di massa di questo, come di tanti altri fenomeni che hanno a che vedere con la salute, che hanno a che vedere con l'assunzione non solo di sostanze, ma con il fatto che siano più o meno diffusi segni di patologie cliniche e così via. Questa è la mia opinione generale, eh. Io penso che per esempio la scuola pubblica dovrebbe riapprocciare un po' questa vecchia impostazione che noi abbiamo superato poi, e i risultati si vedono perché abbiamo perso base di conoscenza. Effettivamente nell'era degli hacker anche, e questa cosa della tutela della privacy è molto molto delicata, cioè fare uno screening non di questo per questo tipo. Non si raccolgono i dati nel mondo, attualmente. Anzi, io capisco che poi sulla galera, come chiunque porti le responsabilità di questo tipo istituzionale, si trova a dover rispondere a reazioni o magari pregiudizi che possono essere di tutt'altro ordine, perché qui l'idea che si dica guardate che ci conviene saperlo meglio che no, la risposta è allora accettalo tu per i fatti tuoi. Bah. Ecco, appunto, in conclusione, assessore Gallera, l'idea che poi sono due filosofie di dire no alla repressione ma solo dialogo, informazione, fiducia, invece che controlli, interventi delle forze dell'ordine, lei da che parte sta, come lo vede questo dibattito? Ma guardi, io penso che insomma tutto quello che può evitare l'utilizzo di droghe o comunque di stupefacenti, io penso che sia utile, no? Allora, se mettiamo le foto raccapriccianti sul pacchetto di sigarette, perché non fare, non voglio dire, paventare uno strumento che in qualche modo evidenzia a tutti che tu utilizzi le droghe, forse può essere uno strumento veramente che fa pensare ed evita, no, che i ragazzi in maniera leggera inizino non soltanto, voglio dire, a fumare, a farsi le canne come si dice, ma magari anche a provare le pasticche insieme agli amici, no? Cioè, forse può avere veramente un effetto del genere. È una battaglia che dobbiamo veramente compiere con grande anche efficacia, perché altrimenti solo a fare la filosofia, quello che sta succedendo, e questa è una società che ancora oggi è attanagliata dal problema dell'utilizzo delle droghe, che ha un costo sociale altissimo, ha un costo già di su. Quindi forse anche uscire dalla, insomma, da valutazioni più teoriche ed entrare anche in strumenti un pochino più. Il tema screening, io sono, voglio dire, fare lo screening potrebbe essere utile come dato epidemiologico, che nulla toglie rispetto al fatto che poi venga comunicato o meno, ecco, è perché chiaro, no? Se noi ci fermiamo a non fare gli screening per un tema di privacy, dobbiamo mettere in campo strumenti che tutelano la privacy, nel senso che sono a prova di hacker, ma noi in Lombardia abbiamo una banca dati molto importante che oggi ci consente di fare per esempio una riforma sul tema della cronicità molto importante, e andiamo avanti moltissimo su questa strada e non ci vogliamo questo fermare. Sì, vediamo, c'è un ascoltatore, Severino, ci chiama da Viareggio. Buongiorno Severino. Buongiorno a voi. Sì, grazie. Dica. No, niente, volevo dare innanzitutto mi fa piacere che qualcuno pensa di fare questo tipo di... Perché? Perché è giusto un attimo controllare questi ragazzi. Non è una forma di come posso dire, di occhio, di grande fratello, l'intrusione, sì, però siccome sono tanti ragazzi, sono anche molto ingenui, e certe volte bisogna un pochino che la famiglia ritorni a essere famiglia. Va bene, ecco, quindi, il genitore, io famiglia capace di esercitare anche poteri di sorveglianza, di controllo per il suo bene. Io sono molto d'accordo con il nostro ascoltatore, perché chiamandoci diceva è vero che insomma lei ha un'esperienza del genere, insomma, sì, io ho avuto un'esperienza del genere, mi segnalo da 16 anni. niente capello, niente estrapolazione di capello, però feci fare un'analisi delle urine senza che lo si accorgesse. Ah, senza che lui se ne accorgesse. Certo, raccogliendo le urine, ecco, diciamo. Sì, raccogliendo le urine in una bandiera, perché chiusi l'impianto elettrico e idraulico di casa, perché ha lo sciacquore andava elettricamente. E poi mettendo una scatolina dentro il batter. Vabbè, diciamo, tecnicamente ha raccolto le urine e ha scoperto che suo figlio... No, non fumava. Non fumava. Ah, cioè ha controllato e ha scoperto che era pulito. Era, sì, fumava singolarmente la classica sigaretta, sì, come sì, abbiamo provato tutti a fare, però... Ah, per vabbè, cioè, ha fatto il controllo e ha tirato un sospiro di sollievo, allora ha avuto... va bene, Severino... ha scoperto così. Va bene, noi nel ringraziare l'assessore alla sanità della Lombardia, Giulio Gallera, dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Grazie assessore, ovviamente gli ascoltatori chiamano su questo. Oscar, poi se c'è anche qualcosa di politica, sì, affrontiamo anche altri argomenti tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qua, alle 8:43 minuti. Eccoci qua. Eri arrabbiato? Perché eri arrabbiato? Ma io sono arrabbiato al Parlamento. In questi giorni vedo che c'è problemi fondamentali che riescono a non farsi vedere nell'agenda pubblica. Perché, capisci, le paginate sull'Europa, Tallinn, l'Austria, cioè. Poi uno, scusate, oggi mi ha fatto ridere, chiacchiere di Tallinn, sfogliando rapidissimamente presto, Bill Gates te lo trovi quasi, in Italia avrebbe definito un salviniano leghista, Bill Gates che ha anni con la sua moglie alla fondazione, dai miliardi, dice, ma fossi un europeo penserei che bisogna scoraggiare gli arrivi facili, perché più siete generosi, meno li aiuteremo a svilupparsi a casa loro, classica frase, posso dire, esatto. Di Salvini, sì. Cioè, questo è anche Di Battista del 5 Stelle naturalmente devono stare lo dice a casa Bill Gates, paginata nella quale nessuno poi trova niente da dire, ma al di là di questo, no, succedono alcune cosette. Io seguo l'economia, no? Quindi improvvisamente è diventato una banalità tecnica, non interessa più a nessuno il fatto che stiamo dopo le due venete, il decreto dettato da Intesa, adesso MPS è di Stato. Naturalmente emerge che ci sono migliaia e migliaia e migliaia di esuberi, e la versione adesso diventa risibile, ridicola. Siano sindacalisti, lo dico con rispetto, anche se Sileoni è un sindacalista che amo, i politici, che gli esuberi sono colpa dell'Europa. A questo punto dico, ragazzi, dedicatevi a un circo se questo è il livello di argomenti. Però i giornali stanno zitti. Oppure, altro esempio che ti faccio, Repubblica incalza da settimane con la lista che ha fatto, no? Sì. Le leggi da approvare sul tamburo, come se, perdonatemi, proprio io non l'ho capita, io ho grandissimo rispetto per Repubblica, i colleghi che ci lavorano, non ho capito questa roba che secondo voi la qualità della legislazione si misura dal numero di leggi da approvare, le leggi manifesto. Risultato, pensateci bene cari colleghi di Repubblica, stanno uscendo delle schifezze su cui pedali. Questa sulla tortura di ieri è una legge con compromessi ridicoli, contrastata da tutti, da destra e sinistra. Ma certo, perché sono compromessi. Chi ha voluto dire difendo le forze dell'ordine? Allora, le definizioni sono così ambigue, come sempre capita nella legislazione italiana, poco chiara, buona per essere stiracchiata nell'interpretazione discrezionale a quel punto del pubblico ministero e del giudice, che fanno ridere su una accusa, un capo di imputazione, una fattispecie di una tale gravità in cui ha senso che ci sia una legge se è chiara. Come devo dirti? Oggi caro Nordio dice è ridicola. La stessa cosa sta avvenendo sul codice delle misure di prevenzione antimafia. Per dire, approvatela. Io sto con quelli che hanno alzato il dito dicendo se l'approvate così stiamo facendo delle follie, cioè si applicano a dei reati di tutt'altra natura, il sequestro preventivo a giudizio del pubblico ministero in audita altra parte, di tutto, di imprese intere, patrimoni. Non lo so, discutiamone. Invece no, perché bisogna approvarle. E finisce la legislatura e quindi un paese che fa follie. Festo. Allora, ci sono ascoltatori. E poi soprattutto crescono le auto blu, ma quello io non mi spiego. Crescono le auto blu. Leonardo da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma su questo tema dell'analisi del capello, io volevo dire che tutto quello che può aiutare le famiglie in questi tempi a monitorare i ragazzi è assolutamente uno strumento meritevole e va utilizzato. Ma di contro, ecco, con tutte le divisioni che ci sono all'interno della scuola, il fenomeno del bullismo, il fenomeno degli emigrati, eccetera, eccetera, introdurre un nuovo elemento di potenziale divisione, di potenziale conflitto in un ambiente dove sappiamo che la privacy non è che venga gestita in maniera ottimale. Mi chiedo perché a scuola questa cosa. Ma c'è la scuola quella frequentata dai giovani? Io mi chiedo cosa c'entra adesso il bullismo e gli immigrati. Gli immigrati, capisco che è un periodo storico in cui li tiriamo dentro su tutto, caro Leonardo. Cosa c'entrano gli immigrati adesso con la questione del capello e la droga? Le classi sono all'ordine del giorno. Ci sono i ricchi che guardano in cagnesco i poveri, ci sono gli italiani che guardano in cagnesco gli immigrati, ci sono i bulli che trattano male i ragazzi. ci sono i drogati che saranno trattati male dai non drogati, perché saranno queste le divisioni che emergeranno. Ah, va bene, in questo senso le divisioni, in ogni è caso. Proprio in questo senso. Grazie. La scuola non è chiaro, però la mia opinione non è tappandosi giusto, gli occhi che capisci, così non ci trattiamo male. E il problema è che noi stiamo decidendo su un mucchio di cose, di tapparci gli occhi, su un mucchio di cose. Così la pensa Leonardo. Andiamo a Nicola dalla provincia di Chieti. Buongiorno Nicola. Buongiorno a voi. Ascolti, innanzitutto vorrei fare una piccola premessa. Sì. Voi dovete prendere il posto di Cruciani e Parenzo alla Zanzara. Si tranquillizzi, questo, non succederà. Comunque, è un peccato, è un peccato, perché è una trasmissione che non si può sentire più. Bene, detto questo vado al nocciolo della questione. Volevo dire che sono assolutissimamente favorevole a questo controllo, a questa eventualità di controllo. Assolutamente perché? Favorevole perché può essere un monitoraggio appunto per vedere, ma secondo me anche le famiglie dovrebbero essere con te, magari non anzi io le vedo anche, però ci sono sempre anche i figli che non saranno molti di questi d'accordo, no Nicola? Ma guardi, io parlo per quelli minorenni, per i minorenni io se fossi sono un genitore oramai di figli grandi, sono nonno, quindi diciamo che è un problema che per adesso non mi riguarda più. Però se io fossi un genitore giovane e avessi un bambino, un ragazzo, non un bambino, a scuola, sarei assolutissimamente favorevole. E non solo, toglierei anche la volontarietà, magari farei a sorte. Diciamo ne prendiamo 5 per ogni classe e poi chiaramente informerei soltanto i genitori, questo penso che sia scontato. Nicola, sì, insomma, chiaro, sono minorenni, quindi la patria potestà sta ai genitori, però non è che sono, come dire, esseri non senzienti o che non pensanti o cose. No, certo. Però è chiaro, il tema, devo dire che gli ascoltatori intervenuti, Oscar, sono abbastanza favorevoli. Però abbastanza sfumature diverse. Molto diverse, sfumature favorevole. Non abbiamo l'opinione dei giovani, che non è così secondaria. Sì, ovviamente il mercato trova sempre poi le sue soluzioni, si svilupperebbe sicuramente un ampio mercato secondario del capello sintetico e reale, però garantito DOC sano. Come sempre. Tu Oscar, da questo punto di vista non ti vedo preoccupato sull'esame del capello. Assolutamente, dal punto di vista tricologico a me manca la materia prima, quindi non c'è nessun problema. Passeremo alla barba, va bene comunque. Esatto. Allora, questi sono i nostri ascoltatori. Allora, caro Oscar, abbiamo iniziato ricordando quello che è successo sui giornali. Sì, la barbarie dello Stato fa morire Dottore Meloni. Dottore Meloni. Noi ringraziamo l'avvocato Cristina Puddu, che è con noi, l'avvocato della famiglia Meloni, era stata con noi 10 giorni fa. La ringraziamo anche perché il momento ovviamente è molto particolare, di grande dolore per la famiglia e immagino anche per lei, ed è con noi. Avvocato, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Noi ne abbiamo parlato 10 giorni fa, lei ha detto nel silenzio generale lo Stato italiano di fatto sta lasciando morire in carcere Dottore Meloni, che si batte per delle idee condivisibili per alcuni, per altri no. Ma però idee. Non è un criminale. E dichiarando, andrò avanti e andrò fino in fondo. Si sente di poter dire che lo Stato italiano in qualche modo lo ha ucciso, gliela chiedo così brutalmente. Sì, io brutalmente le dico di sì, perché sapete anche, perché avete seguito insieme a noi in questi giorni, in questi mesi, tutto quello che è stato fatto, sapete che non era, come dire, non abbiamo nascosto la condizione di Meloni. Dal primo giorno, prima del primo giorno, Meloni aveva annunciato che avrebbe iniziato lo sciopero della fame e che se lo Stato italiano, che lo stava incarcerando, voleva che scontasse le condanne, lo doveva mantenere vivo. Allora, qui siamo arrivati a questo punto. Lo Stato italiano non l'ha mantenuto vivo. Adesso i 20 e passa processi di Meloni, non se ne farà più niente, perché appunto lui è morto e lui non c'è più. Lui è morto perché è rimasto troppo a lungo in carcere, perché non sono intervenuti con i dovuti tempi, con i dovuti modi. Hanno respinto la mia richiesta di detenzione domiciliare già dal 19 giugno. Ne ho riproposto un'altra e ancora non ho avuto nemmeno la risposta su questa. Ci sono state tante istanze, ci sono state le istanze di ricovero, quella addirittura per farlo visitare dentro il carcere dal suo medico di fiducia. Questo è stato accolto dopo circa 20 giorni dalla richiesta, è stato visitato e la mattina dopo ricordiamo che i magistrati di sorveglianza dicevano è nelle condizioni per rimanere in carcere, per questo motivo negavano la detenzione domiciliare. Si è visto, no? Si è visto. La mia opinione è che l'evidenza dei fatti e degli sviluppi La cronaca, rende purtroppo le dichiarazioni di quel magistrato argomento di intervento obbligato disciplinare. Se non c'è neanche questo, vuol dire che non c'è neanche oramai la supposizione di una finta da tenere, perché la sostanza dimostra che le parole, quel giudizio era totalmente infondato. Sì, ma c'è stato un momento infatti nel quale ho capito bene che questa istanza sarebbe stata accolta solo perché gli si facessero i funerali nel suo paese, con i suoi amici, tra i suoi familiari, perché altrimenti la motivazione del rigetto, sostenuta dal fatto che non fosse in concreto pericolo di vita, ecco, questa è stata, è stata esatto, smentita purtroppo dai fatti. Sì. Io, tra l'altro, ripeto, sottolineiamolo questo, chiunque in ascolto la pensi in qualunque modo sull'indipendentismo, le modalità seguite da Aldo Meloni per perseguire i suoi ideali, stiamo parlando di una posizione di coscienza e di deliberato offrirsi alle conseguenze di atteggiamenti pubblicamente assunti perché coerenti a un'impostazione di coscienza. Non stiamo parlando di un capoclan, dranghetista, sequestratore, eccetera, eccetera. Se uno Stato non è in grado di discriminare e distinguere questo, ma che Stato è? Non lo so. Tra l'altro, avvocato, io sentendo anche la madre intervistata per La Verità, cioè la moglie, la moglie di Meloni, ha detto: dovesse mai accadere quello per cui lui insomma, si sta battendo e dicendo porterò avanti in fondo, non, come dire, non potremo stare zitti e qualcuno dovrà renderne conto. Che succederà adesso? Allora, adesso intanto è stata già aperta un'inchiesta perché è stata disposta l'autopsia che si svolgerà credo tra oggi e domani, adesso dopo la trasmissione andrò appunto a Cagliari in procura e verificherò tutti i passaggi perché dovrà essere svolta l'autopsia e quindi è stato aperto un fascicolo per il momento contro ignoti. Dovesse essere conclusa soltanto in questo senso, certamente io con la famiglia porteremo avanti l'inchiesta che deve essere portata avanti, perché ci sono stati assolutamente dei ritardi, delle mancanze, degli errori, questo se lo vogliamo considerare solo in termini di colpe. Se poi dobbiamo pensare che invece ci sia stata una volontà precisa di lasciare andare Meloni così fino al punto da farsi morire, allora sarà ancora peggio. Va bene, noi intanto la ringraziamo per essere stata con noi, ovviamente avvocato Cristina Puddu, l'avvocato della famiglia Meloni, e questa è la vicenda, poi Oscar ognuno, ripeto, la pensi come vuole, la vicenda che oggi finisce sui giornali, un po' troppo tardi, lo diciamo con amarezza, non lo diciamo per Stato portarci che ti fa dei meriti. Morire in carcere per reati di coscienza. E se dite no, era condannato per evasione fiscale, sì, ma per atteggiamento derivante da una dichiarata posizione di coscienza, ripeto, no, perché sorpreso a fare frodi carosello è un po' diverso. E adesso poi non so se lo scrittore Marcello Fois sul Corriere della Sera oggi dice aveva una posizione fiscale che presumo fosse di una pendenza inferiore a quella che ha Valentino Rossi, adesso poi non per citare altre persone, certo. Però questo è il dato di fatto, questa è la cronaca, ripeto, finisce sui giornali forse con qualche giorno di ritardo, questa vicenda. Allora ci dobbiamo fermare perché è il tempo di giornale radio, ma dopo le 9 andiamo avanti fino a. E adesso andiamo a fare un giretto del nostro auto blu, no, come auto crescono blu. Allora abbiamo deciso anche noi, dobbiamo decidere se quella un po' più lunga, quella un po' più corta, sì, soprattutto decidiamo siccome è a trazione animale, un risciò, se sei tu a tirare me o io a tirare te, però vabbè, alternanza. Poi torneremo a parlare di città chiuse, di turismo, di estate, avremo Reinhold Messner con noi che propone la Z, neanche i ticket, la ZTL sulle Dolomiti, cioè chiusura del traffico, uno pensa la ZTL sia nelle grandi città. Invece però secondo me trasmette l'idea di quanto ai suoi occhi oramai l'affollamento è arrivato. Pensate Messner cosa penserà di tutto questo rumore baccano sulle sue amate montagne. Realizzazione delle vie, eccetera. Vabbè, tra poco. I vulcani sono montagne arrabbiate? Gli antichi romani facevano il bagno nel Tevere? I paesi sono tutti uguali o tutti diversi? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Torna a Terra in Vista con l'Italia spiegata a mio figlio. Parleremo delle tante diversità dell'Italia attraverso le città, i fiumi, le coste, le montagne, le isole. Cercheremo di capire insieme perché l'Italia è un paese davvero unico. Insegniamo anche a fare la pizza, quindi? No, dai, pizza e mandolino, no. Terra in vista, l'Italia spiegata a mio figlio, con Telmo Pievani e Federico Taddia. Dal 9 luglio, ogni domenica alle 12, su Radio 24. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, caro Oscar, certo che questa immagine che mi hai lasciato alle 8:20 del limone duro nel giorno mondiale del bacio alla direzione del PD. Io ti ho visto compulsare l'elenco delle componenti femminili nervosamente col ditino. Ma guarda, io pensavo magari anche tra maschi, perché, ma per carità di Dio, certo. O tra femmine. Non esistono pregiudizi di nessun tipo. Poi esatto. Però all'uscita esame del capello per tutti. Esame del capello per tutti per controllare. No, tra l'altro sai che molti dicono, ma scusate, che sono che hanno fenomeni di dipendenza. Si vede, rompete le scatole agli studenti col controllo del capello quando invece ci fu la vicenda, le iene, i politici. Cominciamo a controllare allora anche i politici. Ma perché io sono d'accordo, troveremo delle correlazioni stupefacenti, è il caso di dire, sottolineo l'aggettivo deliberato, tra molte delle loro deliberazioni e atteggiamenti e magari la concomitante, casuale assunzione di... Vabbè, vediamo, c'è Luigi da Latina che ci chiama, credo, su questo, no? Andrea da Firenze, buongiorno Andrea. Buongiorno Oscar, buongiorno Villa. Eccoci. Intervenivo per quanto riguarda il discorso relativo ai ragazzi e la droga. Sì. Argomento molto serio che però ecco, vi pregherei di non distaccare da un altro problema molto grosso, che è quello del bere. Questi ragazzi la sera fanno movida, 15-16 anni, se voi andate nei centri delle vostre città, io lo vedo qua a Firenze, Piazza Santa Croce, Piazza Santo Spirito, è pieno di ragazzi che bevono in una maniera che noi non ci potremmo neanche sognare. E ovviamente poi con il gruppo e facciamoci lo spinello, facciamoci la pasticca. No, ma è chiaro che l'alcol, l'alcol anzi in alcuni casi è il primo problema, non il secondo rispetto alla droga. Il problema è che i pronti soccorsi, se voi vi informate, nei centri città sono pieni di ragazzi che non dico che siano in coma etilico, ringraziando il cielo, però spesso e volentieri sono lì che sono veramente in condizioni disastrate. Ah, ma non c'è dubbio, purtroppo non c'è dubbio. Viaggiano, sono due problemi che viaggiano paralleli. Certo. È un problema veramente grosso, molto più grande di quanto forse chi ha la mia età, 50 anni, ormai diciamo così, non se ne accorge. No, ma è chiaro, perché... ma è chiaro che quello dell'alcol, soprattutto tra i sempre più giovani, è un altro problema molto serio. Certo, l'alcol forse, come dire, è un po' più visibile nelle manifestazioni, è più individuabile forse immediatamente, soprattutto certo. Nelle manifestazioni quando c'è insomma stato di ubriachezza. Sulla droga magari un po' più occultabile da parte dei ragazzi e delle ragazze. C'è Luigi da Latina, l'abbiamo recuperato. Luigi? Sì, sono qui. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Sente? Benissimo. Dica. Che ci vuole dire? Allora guardi, io credo che in Italia noi c'è un eccesso di democrazia, perché l'idea di chiedere ai ragazzi se loro sono d'accordo o meno di fargli il test sul capello per la droga, lo trovo allucinante. È come chiedere al ladro se lui è d'accordo che in caso di furto debba andare in galera. Poveri adolescenti parificati ai ladri. Le regole. La scuola deve avere delle regole a che devono essere rispettate dai genitori e dai ragazzi. Per cui non c'è da discutere in merito. Sono queste e basta. Se si decide, se il Parlamento decide di fare una legge del genere, non bisogna, cioè non credo che bisogna chiedere il parere. Però Luigi, non è una regola non drogarsi, eh? Cioè semmai è una, come dire, un consiglio, una cosa giusta, una cosa da non fare, drogarsi, ma non è una regola non assumere stupefacenti. Quindi che regola viola uno che si fa una canna? Allora a questo punto mettiamo che la droga la vendono i negozi, tutti quanti, e quindi discorso. Il problema è risolto. Questo è un altro non discorso. Mi sembra che sia proprio così, o no? Cioè, Ma se vuole c'è un dibattito grande sulla legalizzazione, ma insomma è un'altra questione. Però per lei, per Luigi, l'adolescente deve adeguarsi. Se viene deciso così, non può neanche essere interpellato in qualche modo, no? Ripeto, raccogliamo le opinioni di tutti. Questa posizione non avrebbe di sicuro la maggioranza, per così dire, per capirci, nella durezza, dici. No, perché verrebbe concepita e avvertita, ma non è questa attenzione al nostro ascoltatore, ne sono sicuro, come una cosa: ma siete impazziti, calati dall'alto autoritariamente. Cioè, questo è un paese che per portare a casa oramai delle decisioni di un qualunque tipo deve darsi procedure coerenti al fatto di poterla portare a casa, perché basta proporla in una maniera oltranzista per avere la certezza che non porti a casa niente. La mia opinione, io mi limito a dire questo: io penso che il patrimonio di conoscenze di massa, il più possibile di massa, su uso e frequenza di uso e astensione dall'uso, oppure episodicità e sistematicità di chi, giovani generazioni, rispetto a sostanze psicotrope, sia un grande buco oramai delle nostre conoscenze, e questo mi preoccupa molto. Quindi io ne faccio una grande questione di prevenzione, di rafforzare su base di dati la prevenzione, prima ancora che poi di accertamento, ipotesi repressive e così via. Questo è il mio punto di vista. Non capiterebbe mai oramai nell'età di oggi, ma in nessun paese avanzato, il Parlamento emana una legge e tutti stanno sulla attenti, perché non è così. Ci sarebbero le occupazioni di massa diffuse, perché diventerebbe un pretesto per farle, tanto per dire. Comunque alle 9:11 minuti, ricordate cari ascoltatori che nei giorni scorsi abbiamo parlato anche della questione delle città chiuse, tema che d'estate riesplode, d'estate quando c'è turismo, c'è l'esplosione degli arrivi, per carità, da una parte viva viva, dall'altra poi c'è una questione di spazio fisico, A, B, effetti su patrimoni architettonici, urbanistici, culturali, straordinari, e che come sempre si usurano, cioè... Sì, però ti ricordi che il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, che dicendo, come dici tu, tanto in questo paese non si farà nulla, però lei personalmente era per il ticket, per l'ingresso per esempio a Venezia, che si può modulare per fasce di mesi, durante l'anno, durante il giorno. Quindi non è uno strumento rigido, uguale, chi ha soldi fa quel che gli pare, chi no, no, però è un incentivo e disincentivo che insieme ad altre misure può servire molto, diciamolo. Però il ministro Franceschini, ieri intervenendo sulla questione di Roma, allora, sul ticket ha detto no, quindi anche Venezia, il ticket no, quindi soldi no, però trovare un modo per modulare, gli arrivi... Cioè, come? Con divieti a questo punto, perché se non c'è un incentivo, disincentivo economico, l'unico è mettere divieti, numero di ingressi massimo, ecco, questa è l'unica possibilità. In tutto questo vogliamo salutare il sindaco di Capri, Giovanni De Martino, una delle perle dell'Italia. Buongiorno. Ma è vero che lei, sindaco, è stato avvistato i giorni scorsi sulla banchina del porto a calcolare gli arrivi delle navi, ogni quanto sbarcano i turisti a Capri perché c'è un divieto, cioè almeno dovrebbero rispettare una distanza di 10 minuti l'una dall'altro nell'attracco delle navi per sbarcare i turisti? Sì, non personalmente, ma abbiamo proceduto a questo rilievo, ma per convincerci prima noi e poi per convincere gli altri che effettivamente c'è una situazione di insostenibilità in alcune punte, orari di punta della giornata, che rendono invivibile e insostenibile l'arrivo dei turisti. Insomma, è un problema soprattutto di decoro e di sicurezza. Di decoro e sicurezza. E faccia capire, cioè c'è questa cosa, è un'ordinanza del c'è un'ordinanza del della cabina di porto, no, della cabina di porto del porto. Esatto, del 1999, che impone l'arrivo con distanziati tra 10 minuti tra imbarcazione e imbarcazione. Purtroppo l'aumento della capacità ricettiva dei navigli dal 99 ad oggi, perché mentre prima si parlava di naviglio che comunque aveva una capacità di 250, 300, 350 persone, oggi il naviglio è aumentato, si è rinforzato e con una sola corsa si è capace di portare anche fino a 600, 350 persone. Sì. Allora la contemporaneità o diciamo la scarsa frequenza, lo scarso intervallo di arrivo che ci sta tra questi mezzi ci crea praticamente una situazione a valle della passerella del naviglio, si crea questa situazione, diciamo, Ma lei ci faccia capire su questi partiti del ticket, non ticket, numero chiuso, lei da che parte sta, sindaco? Al di là di questo problema contingente del non rispetto dei 10 minuti, eccetera. Io sono, e lo stiamo predicando un pochettino da anni, per una razionalizzazione degli arrivi. Cioè? Razionalizzazione degli arrivi significa rispettare degli orari, per cui sappiamo che in banchina, a Marina Grande, eccetera, ci può arrivare va bene. Massimo X persone, eccetera. Quindi diluendo nel corso della giornata gli arrivi, potremmo avere lo stesso numero di sbarchi, ma con una condizione sicuramente più tranquilla. Ma del resto capisci, in un'isola si può usare il collo di bottiglia, per così dire, degli arrivi in porto e tra virgolette questo consentirebbe, mi sembra rispettato. Ragionevole ho capito, ma però mi sembra molto ragionevole quello che ci sta facendo il sindaco. Però, ma perché si arriva purtroppo, ma anche poi un limite di numero, cioè le vorrebbe mettere un limite, non so, ogni giorno a Capri possono sbarcare tot persone, oltre quel numero, anche se sono dilazionati gli arrivi, stop. Non ci sarà bisogno di arrivare a tanto se si lavorerà nel senso in cui dicevo prima, perché ripeto, far arrivare in contemporanea tante persone a Capri, poi farli perdere tempo di ore in file per distribuire sul territorio e quindi accorciare la loro permanenza sul territorio e la loro visita alle bellezze, come diceva lei prima, di Capri e di tante altre località italiane che si trovano nella stessa nostra condizione, è un peccato. Alla fine si andrà via non vedendo niente, magari anche scontenti, perché io ho fatto 3 ore di fila e non ho visto niente. Ma questo è un po' così, però è l'annoso dibattito di come trattare i nostri gioielli, perché poi sono gioielli, no? Che però sono anche assaltati dai turisti. Bisogna darsi questa cosa che l'Italia non riesce a darsi, cioè assumere in maniera ragionata e giustificata, però di fronte a ragioni macro evidenti, delle misure selettive e restrittive. Perché poi questo è il problema, Alessandro. L'Italia non è capace di assumere misure restrittive. Ma che sono? In questo caso la misura restrittiva è a tutela di chi vuole fare il turista, B, a vantaggio della preservazione al meglio dell'offerta turistica e non solo turistica ma naturale. Quindi sono tutte ragioni oggettive. Bisognerebbe veramente avere il coraggio di una generazione di politici che dicesse ai amministratori locali: vi diamo la copertura se qualcuno protesta, dovete farlo, perché è interesse di tutti. Un ticket invece economico, caro sindaco? No, il ticket economico mi sembra ancora più punitivo poi rispetto a chi vuol venire a visitare Capri sia per una giornata che per qualche settimana. Ma perciò il discorso che si faceva prima ed è quello a cui noi abbiamo mirato è sollevare là il problema anche a livello mediatico e ma anche soprattutto a livello istituzionale e politico, per non far cadere il discorso una volta fra 2 mesi quando cadrà e poi ci vediamo tra un anno poi ci vediamo a maggio l'anno prossimo con lo stesso, problema. Ogni anno c'è questo problema, se ne rende conto che a luglio poi dopo viene tirato fuori dai giornali Diciamo noi proprio per questo stiamo cercando di tenere alta l'attenzione e continueremo appunto ad avere contatti e collaborazioni con le altre realtà turistiche italiane che hanno lo stesso problema nostro e naturalmente con le istituzioni centrali. E certo. Va bene, sindaco, noi la ringraziamo ovviamente. Capri è questa la situazione, ma Giovanni De Martino è sindaco di Capri. Messner l'abbiamo annunciato, ma adesso è spento il cellulare. Ma però sai com'è, il carattere perché è un po' lui vuole quello, la montagna lenta, tutto la montagna lento. Silenziosa, e talmente silenziosa. Anche al telefono 2 ore dopo. No, talmente silenziosa che l'abbiamo chiamato sul cellulare e si sarà incazzato. Si sarà incazzato per il rumore. Comunque però la proposta era quella e a maggior ragione quella cosa di Messner è fondamentale. Cioè, sulle ferrate non c'è un numero oltre il quale si può andare. D'accordo, diventa pericoloso però, per tutti. Oscar, tu che sei giustamente come tutti noi per il progresso, non si possono fermare la modernità eccetera. No. Cioè lui vuole una montagna lenta, una montagna come 200 anni fa. Sai, perché ama la montagna, sa che c'è un dibattito tra scuole su questo, su che cosa di negativo oltre che l'accesso di massa ha anche portato questo tra virgolette utilizzo di massa della montagna. C'è chi è più purista, chi ne fa una questione di sicurezza. Per me la sicurezza è fondamentale. A volte veramente d'estate ci sono tragedie, molti morti che avvengono perché si sottovaluta la questione della sicurezza in montagna. Ecco, quindi ci sono tutti questi aspetti e tutti questi aspetti però danno la sua proposta secondo me una certa vuole forza. Le Dolomiti non avverrà. No, è chiaro, le chiama. No, ma in realtà tutti i mercoledì per tutto il mese di luglio e agosto il Passo Sella, cioè tra Trento e Bolzano, sarà chiuso al traffico. Ci sono solo degli autobus che portano i turisti, ma gli ultimi 4,5 km, ieri proprio hanno iniziato questo esperimento, non sono accessibili a tutti i mezzi, quindi è un primo passo, secondo me. Bisogna andare per vedere le Dolomiti tranquillizzate. Tranquille, va bene, lui lo usa apposta perché, ripeto, è un sostenitore, cioè, c'è, nel suo caso c'è anche una filosofia della montagna, certo, ecco, non è, certo, ma come no, lo sappiamo, no? Va. Ed è straordinario anche per questo, tutta l'epopea dei Messer, quindi, d'accordo, ma oltre, pur senza magari condividere alcune parti dell'impostazione culturale, comunque alta e nobile, di Messner, c'è un problema evidente, come è evidente, ripeto, a Capri, a Venezia, a Firenze, solo che, come diceva Piero Angela ieri mattina, nel dire no, l'Italia poi la politica non è capace di decidere. Esatto. C'è Marco che ci chiama da Parma, buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Eccoci. Io volevo intervenire sul discorso delle droghe leggere. Sì. E sono fuori tema? No, no, no, no, ma no, non c'è fuori tema. E scherziamo, abbiamo sentito un ascoltatore poco. Faccio una premessa. Con lei, Giannino, che l'ascolto quando riesco, sono d'accordo quasi su tutto. Su questo discorso mi trovo in disaccordo, ma in una maniera paurosa. Non si può far passare il messaggio che a farsi una canna non fa niente. D'accordo, a farsi una canna non fa niente. No, al limite l'ho detto io. Di overdose. È partito dalla canna. No, no, ma io voglio dire, però aspetti. Noi qui innanzitutto oggi non stiamo parlando della scelta di liberalizzazione, legalizzazione, esatto, eccetera, eccetera. Noi stiamo parlando di un'altra cosa. L'argomento era istituire o meno, e lì era su base volontaria, il controllo del capello negli istituti superiori, quindi ragazzi, adolescenti, in termini pure volontari, per capire o meno chi fa uso e di quale sostanza. Questa è la questione, non liberalizziamo, legalizziamo, e comunque non lo abbiamo detto. Però detto tutto questo, lei su quello sarebbe favorevole a uno screening di massa volontario oppure lo eviterebbe nella scuola? Come? Dice, sarebbe favorevole a uno screening di massa a fare questo esame del capello, fare l'esame del capello. Sì, ma si fa senza fare uno screening. Prima di tutto bisogna guardare la famiglia, guardare i genitori, perché la colpa è dei genitori, il 90% dei casi la colpa è dei genitori. Questa qua è una regola ferrea, un individuo non ha bisogno di alterarsi con delle robe stupefacenti tipo la canna. Ma perché uno deve sballare? Ci ha detto sballare, è un discorso sbagliatissimo. Uno deve essere sempre lui. E poi il discorso che la canna sia più meno invasiva di un bicchiere di vino, anche questo qua, a me non va giù. Sarà questione di abitudine, sarà questione di non lo so. Vabbè, Marco, insomma, la sua posizione è netta, molto chiara. Allora, sentiamo un ascoltatore, poi... Però è riuscito a non dirci se è favorevole o meno, no, esatto, la famiglia, ho capito, sì, però non ce l'ha poi, detto. Un ascoltatore, poi abbiamo un assessore alla provincia di Trento che ci attende tra un attimo. Martino dalla provincia, Martino da Padova, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Benissimo. Sì, intanto complimenti per la trasmissione, perché trattate sempre gli argomenti in modo molto garbato e questo è molto apprezzato. Mi riferivo all'affermazione di Milan poco fa, che ha detto drogarsi in realtà non viola alcuna regola, ma questo è sbagliato. No, regola no, ha detto legge forse. Sì, detto, legge, esatto, sì. Esiste, non è cambiata la legge, il DPR 309. C'è una sanzione amministrativa. C'è una sanzione, è una sanzione amministrativa. E quindi è una legge, cioè lo Stato non ammette. Ma io questo... rispondevo all'ascoltatore che diceva no, perché se si decide che è una legge che gli adolescenti devono sottoporsi a questo esame del capello, basta, non c'è niente da fare. Ho detto, beh, non sono mica delle cose gli adolescenti, cioè sono anche loro, avranno diritto di dire la loro, in questo dicevo, no Martino? La legge comunque esiste, poi la sanzione che è prevista per l'uso personale è una sanzione amministrativa, siamo d'accordo, però a monte c'è la valutazione che lo Stato non deve incentivare l'utilizzo di sostanze che vengono definite psicotrope, cioè che alterano lo stato di lucidità mentale delle persone, perché le conseguenze, se lo Stato incentivasse questo tipo di utilizzo di sostanze, sarebbero gravissime. Pensiamo soltanto a uno che si fa una canna e dopo si mette a guidare la macchina o guida l'autobus o pilota l'aeroplano. Stiamo scherzando. Vabbè, lei va sul tema legalizzazione, mi sembra di capire, cioè lo Stato che è una cosa, vedete, una cosa siamo diversa. Questo posso dire? Vedete un secondo, e non sto giocando nessuno, noi stiamo, apriamo il microfono, stiamo ascoltando tutti. Guardate la frequenza con cui state andando sul tema, come si direbbe, di fondo, cioè se siete favorevoli o contrari, per ragioni personali, ognuno diverso, all'utilizzo di droghe. Noi non stiamo parlando di quello, no, però infatti, questo, il fatto che ci si divida immediatamente così, spiega perché non abbiamo più neanche i controlli. Noi stiamo parlando, ci servono i controlli, io dico sì, altri dicono no, attenzione alla privacy, altri dicono no, se voglio lo controllo io per i fatti miei e non a scuola, mentre invece diventa subito, tu sei favorevole alla droga, esatto, e al contrario, figuratevi, no. Comunque, per chiudere la questione, visto che abbiamo detto il sogno di Messner, quello di vedere delle Dolomiti un po' tranquillizzate, con noi c'è Mauro Gilmozzi, che è l'assessore all'ambiente della provincia di Trento, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno assessore, eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, intanto questo esperimento è un esperimento, quello di chiudere il passo Sella il mercoledì tra Trento e Bolzano, o è un qualcosa che secondo lei andrebbe auspicabilmente messo in maniera stabile? Ma è chiaramente un esperimento, ci sono 9 mercoledì che abbiamo chiamato il mercoledì del Sella, nel quale abbiamo detto questo, cioè il Sella è aperto però ad un uso sostenibile. Ovvero siamo tutti consapevoli che il futuro si costruirà pensando che il modello turistico non può essere semplicemente quello di avere 1.300.000 macchine che girano sui passi dolomitici, ma il futuro dovrà essere impostato un po' di più sul sì al turista, ma con meno macchine, insomma, e più con mezzi pubblici, più con le bici, più con quelli, insomma, quelle attrezzature, strumenti, chiamatele come volete, che a un certo punto ti possono portare, diciamo, su un passo, su un passo dove hai il silenzio come elemento dominante, no? Allora è chiaro che questo è un cambiamento importante, è un cambiamento che riguarda anche gli stili di vita, soprattutto degli europei, insomma, che stanno cambiando, e quindi cambiano quelli dei cittadini e anche quelli dei turisti, e che dobbiamo costruire un po' alla volta, passo per passo, come abbiamo detto. E quindi abbiamo cominciato dal passo Sella perché il rapporto tra Bolzano e Trento ci permetteva, sì, ecco, di regolare anche giuridicamente, no? Il traffico, sì, su questo passo. E stiamo sperimentando. No, ma questo sogno di Messner delle Dolomiti silenziose, così è un sogno futuro oppure guardare al passato, che è un passato che non può tornare, secondo lei, assessore? No, ma intanto è un sogno di tutti, insomma, no? Evidentemente bisogna poi anche concretizzarlo. Quindi noi stiamo lavorando così, abbiamo cominciato con questi 9 mercoledì, stiamo facendo delle campagne di informazione, ci sono delle discussioni in atto, perché c'è chi vede questa cosa con entusiasmo, ci crede, e chi ha molte perplessità, e quindi ovviamente, insomma, ci sono anche problemi di questa natura da gestire, e un po' alla volta vediamo come implementarlo, insomma, ecco, intanto abbiamo comunque implementato anche tutti i servizi di trasporto pubblico che vanno ai passi durante l'estate, anche questo è un passo importante, perché ogni mezz'ora c'è un pullman, no? Quindi stiamo cercando di abituare un po' turisti, albergatori. A rivivere le Dolomiti al passo di Messner, cioè, oddio, al passo di Messner non ci arriva nessuno, però siamo al passo umano. Assessore, noi la ringraziamo molto, ma siamo proprio in chiusura e la dobbiamo salutare. Mauro Gilmozzi, assessore all'ambiente della provincia di Trento, grazie. Orso, dunque, siate felici, cari ascoltatori, pagherete le auto blu perché crescono, e tutti quelli che vi hanno detto che le avevano tagliate, certo, sono come quelli che hanno detto che era risolto il problema del debito ai fornitori dello Stato. Mentono. Ma soprattutto la giornata mondiale del bacio, non lo sanno Chiara Compagnoni in redazione, non lo sa Elisabetta Fusconi, ora cosa le aspetta adesso che usciamo, cioè, devono scambiarsi dallo studio. No, devono scambiarsi un bacio, un bacio loro due. Insieme a Lorenzo Nespoli, Peter Bescapè in regia, facciamo un selfone. Oggi giornata del limone. Più o meno questo programma comune, giornata del limone. A domani.